Passiamo la parola ad Aldo Virgilio, psichiatra responsabile dell'ambulatorio di psichiatria trasculturale dell'ASP di Catania. Sicuramente ha contribuito alla stesura delle linee guida perché ha partecipato ai lavori in Sicilia, ai tavoli di discussione del progetto, e quindi grazie intanto per il contributo dato già nel precedente. Sì, infatti l'esperienza della relazione delle linee guida è stata una bellissima esperienza che ho condiviso con alcuni, con Giancarlo e con Massimiliano, che sono presenti oggi. E vorrei partire un po' da alcune cose che sono state già dette, non mi voglio ripetere, per cui in alcune cose accennerò solamente e le sottolineerò. Un po' l'aspetto un po' che penso sia importante, che è già stato detto, è quello che l'accoglienza, l'accoglienza è la prima parte di una presa in carico che rappresenta un aspetto estremamente importante, e l'accoglienza deve essere veramente accoglienza, cioè deve significare la possibilità e la garanzia di un accesso sia a una comprensione e una comunicazione efficace da parte del migrante, che proprio nel momento in cui arriva è il momento di grande difficoltà di comunicazione, perché è il momento in cui incomincia ad avere il primo rapporto con un mondo altro, e quindi comunicazione non significa solamente traduzione delle parole, ma significa anche avere la possibilità di accedere alla comprensione di un mondo che gli è completamente estraneo, ma anche da parte nostra la possibilità di accedere al suo mondo, che per noi è anche quello estraneo. E quindi questo è il primo passo per garantire l'accesso alle cure e garantirle all'interno del proprio territorio attraverso tutta un'organizzazione strutturata di servizi, cosa che in questo momento secondo me manca ancora in tantissime parti del nostro territorio nazionale. E proprio la dimensione della cultura, dell'approccio multidisciplinare dell'accoglienza del migrante, che non si esaurisce l'intervento sanitario, non si esaurisce in ambulatorio, ma va sicuramente esteso a tutte quelle che sono le problematiche sociali e legali molto spesso che deve affrontare il migrante. E questo può essere fatto solamente attraverso la professionalità, l'accrescimento di professionalità a tutti i livelli. Uno, per esempio, un handicap grandissimo che in questo momento è all'interno dei servizi è quello della mediazione culturale, che non è previsto un servizio di mediazione culturale all'interno, per esempio, delle ASP a tutti i livelli, sia dall'ospedale ai servizi di salute mentale. Nei servizi di salute mentale la mediazione culturale diventa ancora di più un elemento indispensabile, proprio perché è la lingua madre che permette l'accesso alle emozioni, che permette l'accesso al mondo, veramente al mondo interiore, agli aspetti profondi della persona. Per cui, se non si ha la possibilità di utilizzare una mediazione culturale competente ed efficace, ovviamente questo rappresenta una grandissima difficoltà nell'accoglienza. Per cui, per esempio, nel nostro ambulatorio noi abbiamo ovviato a questa dimensione di difficoltà con un'organizzazione che ha tirato dentro quello che è un'attività istituzionale pubblica, un'associazione privata che si occupa di vittime di tratta e che dà la possibilità e fornisce una mediazione culturale specifica. E questo per noi ha rappresentato un grande elemento di ricchezza, perché ci ha permesso di superare quelle difficoltà che altrimenti dal punto di vista istituzionale non avremmo avuto modo di superare. Ecco, un po' dando io uno sguardo a quello che è la caratteristica dell'utenza che io ho nel mio ambulatorio, un po' posso dire che c'è un po' di tutto di quello di quegli elementi che il dottore Costanzo ha appena specificato. Quindi un po' in un ambulatorio poi clinico di frontiera come può essere il nostro qui a Catania, diciamo che afferiscono tutte le varie problematiche nelle loro varie specificità, quindi dalla vittima di tratta, al minore non accompagnato, al migrante, tra virgolette, economico, che in qualche modo ha dovuto poi modificare il proprio progetto migratorio una volta che dopo la partenza. Per esempio, un aspetto che stiamo notando molto qui nel nostro territorio è la presenza di tantissimi minori stranieri non accompagnati di nazionalità bengalese, che vengono attratti nel proprio paese, nei propri villaggi, dalla possibilità di trovare un lavoro in Libia, e quindi si affidano a dei trafficanti che organizzano il loro viaggio fino alla Libia, e la Libia poi diventa un po' un inferno, perché rappresenta un luogo dove non è possibile permanere. E questi ragazzi vengono sfruttati, schiavizzati, violentati e costretti a pagare un ulteriore riscatto per poter partire, e quindi per loro non è più possibile tornare indietro, e quindi devono necessariamente spostarsi avanti, e quindi magari così poter partire per la Sicilia. Per cui in qualche modo quello che era un progetto migratorio programmato diventa poi un progetto forzato, una migrazione forzata, perché non è possibile per loro rimanere nel contesto in cui si sono venuti a trovare. Un altro aspetto che mi preme anche così sottolineare, che pongo all'attenzione anche delle persone che politicamente possono affrontare questo problema, è la difficoltà di inserire e di dare un'accoglienza adeguata ai detentori di una protezione umanitaria, vittime estremamente vulnerabili che hanno problematiche psichiatriche anche gravi, che a causa del loro tipo di protezione non possono accedere ai progetti. E quindi per queste persone poi non è possibile attuare tutta una protezione sociale che diventa indispensabile, per cui li accogliamo in ambulatorio, però poi se sono persone senza fissa dimora, che vivono per strada o che vivono nei dormitori, dove alle 7 del mattino devono andare via per ritornare alle 7 di sera, comprendiamo benissimo come possa essere poi di grandissima difficoltà la vita per queste persone, ma anche la possibilità di avere dei percorsi di cura adeguati. Io, un pochettino facendo una piccola analisi delle persone che afferiscono al mio ambulatorio, ho contato che ho 10 persone affette da patologie psichiatriche gravi che non possono accedere al sistema di protezione per vulnerabili, e quindi per loro diventano veramente delle situazioni di una gravità sociale estremamente grave. Un po' l'altra riflessione che volevo così condividere è il fatto che penso che sia importante riuscire a trasferire nella concretezza quotidiana le linee guida, perché così noi avevamo redatto le linee guida nel 2017, ci sono state altre linee guida anche attraverso altri progetti, però penso che sia importante che queste linee guida poi debbano riuscire a essere plasmate nei loro interventi sulle esigenze delle persone. Quindi devono riuscire a incidere in quello che è la trasformazione dei servizi e delle istituzioni. Per esempio, un esempio che mi viene di fare è quello delle vittime di tratta. Per esempio, le donne vittime di tratta in qualche modo hanno contratto un impegno con i loro trafficanti al fine di modificare la loro qualità di vita. Quando poi arrivano nei nostri territori, se noi non riusciamo a dare loro un controvalore rispetto a quello che sono state le prospettive che a loro sono state in qualche modo promesse, allora è difficile che aderiscono a un progetto di affrancamento dai trafficanti. Nel senso che dobbiamo riuscire poi ad attuare dei progetti che permettono veramente a queste persone di avere dei percorsi di indipendenza e di autonomia che rappresentano l'unica modalità per poter fare uscire quelli che sono i sistemi di sfruttamento. Io penso che quando parliamo anche di affrontiamo i problemi dell'immigrazione e anche della salute mentale, dobbiamo cercare di avere uno sguardo un po' più ampio su tutto quello che è il mondo migratorio. E quindi anche riguardo a quelli che sono dei progetti, mi riferisco un po' ai progetti l'ICARE, che è un po' il proseguo di quello che è un progetto FIDER, che anche quello è stato un progetto che ha avuto come co-partner la regione siciliana, le ASP della regione siciliana. Ecco, io penso che se i progetti non riescono a modificare, se non creano pensiero, e quindi se non riescono in qualche modo a incidere su quello che è la percezione del fenomeno a livello istituzionale, i progetti rischiano di restare solamente dei progetti che alla fine non lasciano un pensiero concreto che possa modificare le istituzioni, che penso che sia l'aspetto più importante di cui in questo momento abbiamo bisogno. Grazie, ho terminato. Grazie veramente per due questioni che mi sembrano molto importanti. Una, quella che è appena ricordato, insomma, la necessità di dare continuità e di modificare gli approcci, di non fermarsi a azioni concettuali che poi evaporano, diciamo. Ma l'altra questione, come si diceva, del fatto che oggi noi abbiamo, noi nella pubblicazione lo ricordiamo, per fare il caso di Roma, il 50% e forse più dei senza fissa dimora con problemi psichiatrici oggi sono sostanzialmente migranti che sono stati espulsi in qualche modo dai sistemi di accoglienza e che poi non riescono più a rientrare e che invece entrano a ripetizione nei servizi, negli SPDC, con problemi che potete immaginare.